europea Barroso, giù forse dopo il declassamento della Spagna, poi risalgono. La fotografia del nostro paese nel censimento dell'Istat, più famiglie ma più piccole, aumentano gli italiani che vivono in baracche e roulotte. Uccisa Denna perché aveva pronunciato il nome dell'ex, e a Roma giudici in camera di consiglio al processo d'appello per via Poma. Guardiola divorzia dal Barcellona, atteso a minuti l'annuncio. È durato più dell'ora prevista l'incontro a Bruxelles fra il Premier Monti e il Presidente della Commissione Europea Barroso, che si sono detti d'accordo sulla necessità di sviluppare ulteriormente il mercato unico e di rafforzare l'applicazione delle sue regole, in particolare con progressi nei settori dell'economia digitale, dell'energia e dei servizi. I due si sono dati nuovamente appuntamento il 15 maggio. E commenti dall'Europa arrivano sul declassamento della Spagna e su dati della disoccupazione spagnola. In diretta il collega del Sole 24 Ore, Luca Veronese. Buongiorno Luca. Buongiorno. Sì, si complica la crisi spagnola, la Spagna è sempre più al centro della crisi del debito, della crisi economica europea, e c'è preoccupazione sui mercati e in tutti i partner europei per la situazione di Madrid. E questa mattina l'agenzia Standard & Poor's, l'agenzia di rating americana, ha deciso di tagliare nuovamente il rating sul debito della Spagna, portandolo da A a BBB+, con conseguenze e ricadute ovviamente sui titoli, sull'affidabilità della Spagna, giudicata insufficiente a causa dell'indebitamento e della posizione esposta delle banche spagnole stesse, che oltre a subire i danni del crollo del settore immobiliare, hanno adesso in pancia anche un bel po' di titoli di bond, quindi di paesi periferici come la Spagna, che ne appesantiscono i bilanci. Dall'Unione Europea è arrivato appunto il sostegno, ma preoccupa sempre di più la crisi interna alla Spagna, con la disoccupazione salita al 24,4%, i massimi da 18 anni. Grazie al collega del Sole 24 Ore Luca Veronese. Le notizie che riguardano appunto la Spagna avevano fatto scendere le borse europee questa mattina, la situazione che poi è tornata a stabilizzarsi. Deborah Rosciani. Sì, è così. Le piazze finanziarie, in particolar modo Madrid in avvio, è arrivata a perdere il 2%, e anche Milano è scesa fino all'1,9%. Poi c'è stato un cambio di direzione a metà mattinata, anche perché c'è da dire che sembrava piuttosto originale questa reazione dopo una decisione dell'agenzia di rating, visto che le agenzie di rating ci hanno abituato a tutto negli ultimi tempi, e quindi era sembrata forse una reazione abbastanza forte, tant'è vero che poi le borse hanno cambiato seduta, come vi dicevo adesso. Il quadro è positivo ovunque, con Parigi che sta salendo dello 0,4%, Francoforte più 0,20%, Londra in rialzo dello 0,29%, Milano più 0,64%, addirittura sulle FTSE MIB. Tra l'altro stamattina il mercato si confronta anche con la nuova asta di titoli di Stato italiani. Il Ministero dell'Economia ha collocato BTP a 5-10 anni per complessivi 4 miliardi e 900 milioni di euro, poco meno dell'importo massimo prefissato di 5 miliardi, ma dovuto offrire tassi più alti, al 5,84% per il titolo che scade nel settembre del 2022, dal 5,24% dell'asta di marzo. Per il titolo in scadenza nel maggio 2017 il tasso è cresciuto al 4,86% dal 4,18%. Un'ultima buona notizia che riguarda la borsa: oggi ha esordito a Piazza Affari Brunello Cucinelli, più 30% sul listino appunto di Milano, quindi sicuramente un esordio incoraggiante. È tutto. Grazie a Deborah Rosciani. La Guardia di Finanza di Milano sta acquisendo documenti nella sede Premafin relativi a Sinergia ed IMCO, le holding della famiglia Ligresti, tramite cui viene controllata una quota di Premafin. Nei giorni scorsi il PM Orsi aveva chiesto il sequestro delle quote di Premafin in mano alle due società. L'inchiesta della procura vede indagato Salvatore Ligresti per ostacolo all'autorità di vigilanza in relazione ai trust stranieri che detengono circa il 20% di Premafin e di Aggiotaggio. 2.200 evasori totali non hanno mai presentato la denuncia dei redditi. È il bilancio dei primi quattro mesi del 2012 sul fronte dell'evasione fiscale. Ne abbiamo parlato con il colonnello della Guardia di Finanza, Giuseppe Arbore. Il fenomeno è abbastanza trasversale. Abbiamo una concentrazione maggiore il settore del commercio, circa il 25%, segue a ruota il settore delle costruzioni con un 22%, ma poi abbiamo anche il settore della manifatturiera e un buon 6% di professionisti, il che è anche indicativo di come anche questo settore sia interessato dall'omessa presentazione delle dichiarazioni. In particolare per quanto riguarda il commercio c'è una categoria che avete visto maggiormente presente? Assolutamente no, è molto trasversale, si va dall'abbigliamento addirittura anche alla macellazione vera e propria. C'è un caso particolare addirittura in Sicilia, a Messina, dove un'azienda utilizzava la riponzunatura addirittura dei bovini per poter creare un flusso parallelo a nero del bestiame, anche con pregiudizio per la salute dei cittadini. C'è un caso particolarmente eclatante, un caso che ha fatto sobbalzare anche lei, che magari queste cose le vede già da un po'? Guardi, abbiamo il caso di un bar addirittura che è in una rinomata località sciistica dove non presentava dichiarazione, cioè rilasciava tranquillamente scontrine ricevute. Devo dire probabilmente questo è anche conseguenza di questa rinnovata attenzione nei confronti dell'emissione degli scontrini ricevuti. I cittadini continuano a chiedere scontrini ricevuti, quindi è più difficile per il commerciante non emettere il documento fiscale. Ovviamente di ritorno c'è la tentazione a non presentare la dichiarazione, quindi correttezza formale ma omessa presentazione della dichiarazione. A questo punto come procedere alla luce di questi dati? Allora, intensificheremo i controlli sia nei confronti appunto di quanti, nonostante emettano regolare documento fiscale, non presentano dichiarazione, sia nella mobilità delle aziende, perché c'è un'altra tendenza che abbiamo evidenziato, che le nostre attività evidenziano: per cercare di sottrarsi ai controlli si cambia spesso sede di azienda, nella speranza che l'amministrazione finanziaria non sia in grado di approntare il controllo con una modifica delle competenze territoriali. Quindi siamo molto attenti ai mutamenti di sede. Questo ci ha consentito di scoprire numerose evasioni totali in questa fase e continueremo in questa indagine. Siamo invece allo scandalo che coinvolge la Lega. Bossi sapeva delle spese dei suoi familiari, a dirlo l'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito. In diretta da Roma, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Iniziano ad uscire dunque maggiori dettagli circa l'interrogatorio dell'ex tesoriere della Lega ai PM milanesi che indagano sui fondi del Carroccio. Belsito avrebbe informato direttamente Umberto Bossi sulle spese più significative effettuate dai familiari del leader e pagate coi soldi del partito. Belsito avrebbe chiarito che aveva una sorta di carta bianca dai vertici sugli investimenti, mentre per le spese più importanti dei familiari del leader avvisava direttamente l'allora segretario. Da quanto è emerso dagli interrogatori davanti al procuratore aggiunto Alfredo Robledo e ai PM Roberto Pellicano e Paolo Filippini, l'ex tesoriere avrebbe inoltre sostenuto che i vertici di Via Bellerio erano a conoscenza della sua volontà di diversificare gli investimenti, inclusi i fondi movimentati verso Tanzania e Cipro. Sulle singole operazioni Belsito si sarebbe poi mosso autonomamente, godendo di fiducia. L'interrogato inoltre, da quanto si è saputo, ha messo a verbale che degli investimenti in diamanti era cosa risaputa, in quanto, vista la crisi dell'euro, a suo parere erano più redditizi. Ed è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Biglietta. E viene presentato in questi minuti, sempre a Roma, il concerto del 1° maggio, una festa, quella di quest'anno, che cade in un momento di forti tensioni proprio sui temi del lavoro. In diretta Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno da Viale Mazzini, dove appunto si sta svolgendo la presentazione delle iniziative del 1° maggio, dove i temi della riforma del mercato del lavoro, del fisco e della crescita tornano in primo piano. Il segretario della CGIL Susanna Camusso, entrando qui in Rai, ha confermato l'intenzione di indire uno sciopero generale. Certo che ci sarà, il sindacato di Corso d'Italia scenderà in piazza, ma la data è ancora da definire. Camusso ha poi ricordato che il 10 maggio ci sarà la manifestazione contro la precarietà, diversa dalla posizione della CISL. Lo sciopero è uno strumento estremo, non si può usare tutti i giorni, ha detto Bonanni. Noi siamo per mobilitarci il sabato e fuori dall'orario di lavoro. Contrario allo sciopero anche il leader della UIL Angeletti: sarebbe un errore in una fase di recessione come questa. Angeletti, che entrando sempre qui in Rai, si è detto particolarmente preoccupato per l'alta pressione fiscale. L'ultimo carico fiscale, ha spiegato, determinerà quasi una riduzione della tredicesima. E sul fisco c'è invece da registrare una convergenza dei tre sindacati, che ieri hanno avuto un incontro. A confermare questa comunanza di vedute è stato lo stesso segretario della CISL Bonanni. Da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Ora invece parliamo di calcio, perché ormai è davvero arrivato il momento dell'addio al Barcellona di Pep Guardiola. L'annuncio è atteso fra qualche minuto. Carlo sì. Genta. Sì, è a conferenza stampa alle 13:30. che andrà ad ufficializzare quanto già è trapelato in mattinata attraverso quelle pagine comunque autorevoli per quanto riguarda Barcellona di Marca. Guardiola, insomma, ufficializza questo addio di cui si è parlato per tutto l'anno in realtà. E non potrebbe essere stato, anzi secondo molti è stato anche un elemento di disturbo in una stagione non proprio felicissima del Barcellona, che sta perdendo la Liga a beneficio del Real Madrid e che è uscito a sorpresa dalla Champions League. Guardiola è il grande protagonista, il matma di questo Barcellona, ha vinto 13 titoli sui 17 disponibili nella sua permanenza in Blaugrana, 3 campionati, 2 Champions League e un sacco di altri allori, cui potrebbe aggiungerne un altro il 25 maggio, perché c'è la Coppa di Spagna, ne ha vinta una soltanto, però il Barcellona è in finale con l'Atletico Bilbao e quindi questi numeri potrebbero diventare 14 su 18. Si parla già di sostituti, ma per ora sono solo chiacchiere, da Wenger a Valverde a Bielsa. Intanto la notizia importante è appunto la grande attesa per questa conferenza stampa di Guardiola e per il suo futuro, che ovviamente non verrà comunque svelato oggi. Secondo me si ferma un anno, poi vediamo. Grazie a Carlo Genta. Allora staremo a vedere davvero nei prossimi minuti quello che accadrà. E continuiamo a parlare in qualche modo di calcio, perché se da un lato si registrano questa mattina 4 esplosioni nell'Ucraina orientale con almeno 15 feriti, i media locali riferiscono che un'esplosione sarebbe avvenuta ad una fermata dell'autobus ed un'altra davanti ad un cinema. Gli ordigni erano piazzati dentro cassonetti della spazzatura. Ma quando fu scelta come sede dei campionati europei, l'Ucraina sembrava avviata sulla via della democrazia piena. Le cose però non sono andate così e la protesta monta. Agli europei di calcio manca più di un mese, ma la Germania è già in campo. Non per difendere la propria porta, però, ma i diritti umani in Ucraina, paese che con la Polonia ospita il campionato e che, ironia dei sorteggi, vedrà l'esordio della nazionale tedesca negli stadi di Kharkiv e Lviv. Le notizie sempre più preoccupanti sull'ex premier Yulia Tymoshenko, da tempo in carcere in condizioni pare molto dure e con seri problemi di salute, accertati anche da medici tedeschi, hanno fatto sì che il presidente tedesco Gauck non confermasse la partecipazione al summit dei presidenti dell'Europa centrale in programma a Yalta. Non è un rifiuto, ha detto il suo portavoce, ma la lunga e nota militanza del presidente nei gruppi di opposizione al regime comunista della DDR ha dato da pensare. E comunque l'intero governo tedesco si sta spendendo per la Tymoshenko, dal cancelliere Merkel ai ministri degli esteri, della giustizia e dell'interno. Intanto, in segno di protesta per le violazioni ai diritti umani in Ucraina, la commissaria europea alla giustizia Reding ha formalmente annunciato che non assisterà alla partita di apertura dei campionati europei. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Faccia a faccia di oltre un'ora a Bruxelles fra Monti e il presidente della Commissione europea Barroso. Giù le borse dopo il declassamento della Spagna, poi risalgono. La fotografia del nostro paese nel censimento dell'Istat. Più famiglie ma più piccole. Aumentano gli italiani che vivono in baracche e roulotte. Guardiola divorzia dal Barcellona. Atteso a minuti l'annuncio. E ripartiamo dal nostro Radio Day, dedicato a chi cerca di resistere alla crisi e qualche volta purtroppo non ce la fa. Radio 24, come sapete, ha deciso oggi di accendere i riflettori su questo tema. In realtà i riflettori sono accesi tutti i giorni, ma oggi in particolare ne parliamo nei programmi e nei GR per l'intera giornata. Qui accanto a me Sebastiano Barisoni, in Focus Economia, ne parla tantissimo di questo tema. Come sta andando la giornata? Sì, chiaro che è una giornata, se mi permetti Piera, che non avremmo mai voluto fare, quella dedicata chiaramente agli imprenditori in difficoltà, agli imprenditori disperati, ma anche agli imprenditori che si sentono soli. La solitudine è il tratto comune che vediamo nelle migliaia, oltre 1500 mail arrivate in meno di una settimana, di questi imprenditori. Per imprenditori intendo dire artigiani, commercianti, piccolissimi imprenditori in difficoltà. Il tentativo è quello di dare voce in primo luogo, e così hanno fatto questa mattina Oscar Giannino con Alessandro Milan, ma anche con Gianluca Nicoletti, poi Nicoletta Carbone con il suo programma, in cui chiaramente il tema è stato affrontato da un punto di vista più dell'aiuto psicologico che si può dare a queste persone, di come reagire alla depressione, che è un portato di quando fallisce un progetto di lavoro, che spesso è anche un progetto di vita. Poi ha continuato Deborah Rosciani con consigli pratici, come lei, proprio sugli strumenti che possono essere utilizzati da imprenditori in difficoltà. Riprenderemo alle 16 con Focus Economia, che oggi anticipa di un'ora e apre anche le telefonate 800 24 0024. Tracceremo un punto, se vuoi, anche politico, nel senso che, come ricordavamo durante la giornata, c'è un po' di distrazione nel paese quando si tratta delle difficoltà dei piccolissimi imprenditori, c'è un'attenzione più alta per altre categorie sociali, almeno questo noi abbiamo notato. E chiuderemo con Oscar Giannino. Io e Oscar Giannino abbiamo lanciato così in maniera un po' spontanea un'iniziativa che poi ha avuto il contributo di tutta Radio 24. Dicevo, chiuderemo alle 18:30, ma non si fermerà qui l'iniziativa Disperati Mai, resta l'indirizzo a cui scrivere le mail, che è appunto disperatimai@radio24.it. Grazie a Sebastiano Barisoni, dunque buon lavoro. I residenti in Italia al 9 ottobre 2011 poco più di 59.464.000. L'Istat ha presentato questa mattina i risultati provvisori del censimento. Rispetto al 2001 l'incremento è del 4,3% dei residenti. Molti altri gli elementi che vale la pena sottolineare, ne parliamo questa mattina con il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini. Un dato interessante è relativo agli stranieri, in particolare a ottobre del 2011 abbiamo censito circa 3.800.000 stranieri, 2.400.000 in più rispetto a 10 anni fa, mentre la popolazione di origine italiana è rimasta sostanzialmente costante. C'è un altro dato interessante, anche questo non nuovo, ma che saremo in grado di dettagliare meglio sul territorio, che la dimensione media delle famiglie si è ridotta ulteriormente da 2,6 persone a 2,4 persone, perché il numero di famiglie è aumentato in questi 10 anni di 2,7 milioni. Un altro dato interessante riguarda dove si è realizzato l'aumento degli stranieri. Naturalmente si è realizzato nelle regioni dove l'economia è stata più dinamica e quindi troviamo in particolare la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Veneto, il Piemonte, la Toscana e il Lazio sono le regioni dove la popolazione straniera è aumentata maggiormente rispetto a 10 anni fa. Per quanto riguarda i dati sulla casa, sull'abitazione, avete degli elementi? Sì, il numero di abitazioni è aumentato, oggi abbiamo circa 14 milioni di unità in termini di edifici e l'aumento è stato di circa l'11% rispetto a 10 anni fa, soprattutto nell'Italia centrale più 15,4% e nell'Italia nord-orientale più 13,6%. Un ultimo dato interessante è che è aumentato significativamente il numero di altri tipi di alloggio occupati da residenti, parliamo cioè di camper, roulotte o altre costruzioni meno classiche, e qui abbiamo avuto un forte aumento rispetto al 2001. Eni chiude il primo trimestre con un utile in rialzo del 42% a 3,3 62 miliardi. Il gruppo ha ottenuto risultati eccellenti grazie alla ripresa produttiva in Libia e all'incremento del prezzo del petrolio, ha commentato l'amministratore delegato dell'Eni, Paolo Scaroni. Siamo alla pagina di cronaca. Ad uccidere Vanessa Schalf è stato il suo ragazzo Francesco Lopresti, sotto l'effetto della cocaina. La lite sarebbe avvenuta nella casa in cui convivevano. Lopresti ha confessato alla polizia di essere impazzito di gelosia quando la ragazza, in un momento di intimità, lo avrebbe chiamato con il nome dell'ex fidanzato. Ed è attesa fra poco, nel pomeriggio, la sentenza d'appello per l'omicidio di Via Poma, che vede imputato Raniero Busco, l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni. In diretta dal Palazzo di Giustizia di Roma, Andrea Viali. Sì, buongiorno. Da oltre 2 ore i giudici della prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Roma sono riuniti in Camera di Consiglio. A breve potrebbe arrivare questa sentenza che deciderà il futuro di Raniero Busco, ai tempi, come dicevi, fidanzato di Simonetta Cesaroni. In primo grado, lo ricordiamo, era stato condannato a 24 anni perché è ritenuto responsabile della morte della ragazza uccisa con 29 coltellate nell'agosto del 90 nell'ufficio dove lavorava in via Foma. Un delitto, lo sappiamo, rimasto per anni irrisolto. Busco, che anche oggi è presente in aula assieme a familiari e amici, si è sempre detto innocente. A suo favore in questo processo sembra pesare la maxi perizia voluta dalla Corte, perizia che ha in parte minato l'impianto accusatorio che in primo grado aveva portato alla sua condanna. Anche nelle repliche finali stamattina i suoi legali per lui hanno chiesto l'assoluzione, procuratore generale e parte civile chiedono invece che sia confermata la sentenza di condanna. Anna, la parola ora è ai giudici, per ora è tutto chiaro. Grazie, grazie ad Andrea Viali, dunque attesa per questa sentenza. Andiamo invece all'estero, il Connecticut ha abolito la pena di morte, è il 17° stato americano a farlo. La pena capitale sarà sostituita dal carcere a vita. L'abrogazione però non avrà effetti per gli 11 detenuti nel braccio della morte in Connecticut, che però, secondo il governatore dello stato Malloy, hanno più probabilità di morire di vecchiaia che per un'esecuzione, perché negli ultimi 52 anni solo 2 persone sono state giustiziate nel paese, mentre la gente dello stato ha pagato per gli appelli. La pena di morte potrebbe essere presto abolita anche in California. Si terrà a novembre, infatti, il referendum. Il Mein Kampf nelle scuole tedesche, si rompe un tabù in Germania. Ufficialmente è soltanto una questione di diritti d'autore. Il Land tedesco della Baviera ha deciso di pubblicare nel 2015 una nuova edizione commentata del Mein Kampf di Adolf Hitler, il libro base dell'ideologia nazista. Sarà disponibile anche per le scuole in versione semplificata, una scelta destinata ad accendere discussioni, ma che esponenti della comunità ebraica tedesca hanno già giudicato come positiva. La Baviera possiede i diritti d'autore del Mein Kampf e finora ha sempre negato il permesso alla sua pubblicazione in Germania, ma 70 anni dopo la morte di Adolf Hitler il testo diverrebbe di pubblico dominio e c'è il rischio che venga riproposto in volume da gruppi estremisti di destra. Il divieto, del resto, è già stato aggirato via internet, attraverso cui si può scaricare il Mein Kampf anche in tedesco. Francesco Riccardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Incontri, mostre, concerti e tanta letteratura. Si apre domani a Ferrara la 3ª edizione della Festa del Libro Ebraico in Italia. Simona Mortara, curatrice dell'esposizione principale, quella sul romanziere Giorgio Bassani. La 3ª edizione della Festa del Libro Ebraico in Italia rappresenta la volontà degli ebrei italiani di raccontare la propria storia più che bimillenaria. In 3 giorni di festa allegra saranno più di 40 le iniziative che si svolgeranno a Ferrara. Ci sarà una vastissima libreria, più di 5.000 titoli in vendita, con più di 48 case editrici presenti, mostre. La più importante si chiama Che bel romanzo, Bassani e il giardino dei finzi contini a 50 anni dalla uscita. È un modo di raccontare la storia della cultura ebraica in Italia, che non è solo la cultura degli ebrei italiani, ma è un punto di vista leggermente diverso, ma che racconta la storia della cultura italiana tutta. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleoni, prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.